Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, sono Nicoletta, vi stavo aspettando. Oggi parliamo di voce. La indagheremo sotto molte sfaccettature, convinti di una cosa: che saperla usare, averne cura, proteggerla, valorizzarla, può farci vivere meglio, può regalarci benessere, autostima, salute, in proprio in senso lato. Perciò cominciate subito ad ascoltare cosa vi dice la vostra voce e soprattutto come ve lo dice, perché oggi ci trasformiamo in veri e propri vocal coach e vi aiuteremo a dare il massimo con la voce e attraverso la voce. In questo viaggio ci accompagneranno due grandi esperti: Daniela Satragno, la vocal coach delle star, che ha da poco pubblicato per Sperling & Kupfer Voglio Cantare, un manuale di vocal coaching che insegna a tutti, ma proprio a tutti, a tirare fuori il meglio dalla propria voce, grazie ad un metodo chiamato Vocal Care. Buongiorno Daniela. Buongiorno a tutti. Elina, con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Franco Fussi, che è foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico USL di Ravenna. Bentornato, grazie. Ciao Nicoletta e ciao Daniela. Allora, anche voi da casa potete intervenire, misurare la vostra voce, farvi dare qualche consiglio. Danila, non solo alle persone che vogliono cantare, ma anche alle persone che vogliono usare bene la loro voce, vogliono fare amicizia con la voce che talvolta sentiamo che non ci rappresenta. Perché, Danila? Spesso, sì, assolutamente, hai detto una cosa bella: fare amicizia con la propria voce. Fare amicizia con la propria voce vuol dire anche fare amicizia con gli altri, però, no? Perché è il nostro mezzo di relazione primario, per cui è importante che comunque segua i nostri sentimenti e che riesca anche a comunicarli nel modo giusto, perché spesso, no, ci succede anche solamente in una conversazione telefonica, senza conoscere l'altra persona, di percepire subito una sensazione di simpatia, di attrazione e purtroppo anche di negatività in questo senso. Questo dipende molto da noi, dal modo di approcciarci, proprio dal modo di saper controllare e usare la voce, saper comunque sedurre, no? Perché è un gioco meraviglioso anche di seduzione, soprattutto nella voce parlata. Sentite, io mi vorrei scusare con voi. Non sarei dovuto andarmene. Ascoltate, non sono come i miei amici e ne ho abbastanza di quella vita. È in questo coro che voglio impegnarmi con voi, ragazzi. Credevo che questa fosse la cosa più deficiente della Terra. E magari lo è, ma siamo tutti qui per lo stesso motivo: per riuscire a fare qualcosa di buono. Arti, tu suoni la chitarra, no? Puoi reclutare la jazz band. Ho delle conoscenze, sì. Ok. Mercedes, ci puoi procurare dei nuovi costumi che siano alla moda? Me lo chiedi, non vedi come vado in giro? Rachel, a te le coreografie. Tina, tu che sai fare? Troveremo qualcosa anche per te. E tu cosa metti nel piatto, Justin Timberlake? Io metto la musica. Dalla serie Glee torniamo insieme al dottor Fussi. Dottore, uno dei motivi per cui molte persone non sanno come usare bene la propria voce è proprio che non ne conoscono gli aspetti anatomici, fisiologici, che nel libro e anche nel DVD abbinato al libro sono raccontati in modo particolarmente ricco. Lei ce la fa a farci un bignamino della voce? Ma in termine... È giusto quello che diceva Danila, cioè nel senso, prima di tutto dobbiamo acquisire la competenza, no, dell'utilizzo vocale, quindi la consapevolezza e quindi la capacità tecnica, e questo non soltanto sul piano estetico, ma anche quindi relativa agli stili di canto, ma anche proprio del saper fare a gestirla quotidianamente nelle nostre esigenze lavorative, nelle nostre esigenze del quotidiano. Abbiamo sempre detto che la voce non è qualche cosa che abbiamo, ma qualche cosa che facciamo, nel senso che non basta comprare l'automobile, ma bisogna saperla guidare, no? Quindi certo, specializzare e specializzarci in base anche a quello che poi dobbiamo fare con questo nostro veicolo. Sicuramente se vivo in centro a Milano come Nicoletta sarà molto più brava di Franco Fussi a parcheggiare devo dire sono brava perché mi arrampico. Esatto, quindi ha acquisito un'abilità specifica motoria in questo caso, perché in fondo le corde vocali sono gestite da muscolature che quindi vanno specializzate, dobbiamo imparare a saperle utilizzare. Il come? Beh, sicuramente acquisendo delle competenze e delle conoscenze non tanto semplicemente anatomo-fisiologiche, ma proprio di comportamento, quindi imparare a respirare correttamente, a sapere la distinzione tra quando devo aumentare la pressione aerea e come posso farlo senza coinvolgere eccessivamente le corde vocali, quindi far lavorare di più la benzina e meno il motore, diciamo, del nostro strumento, e soprattutto come fare per amplificarle, quindi per raggiungere un miglioramento dell'udibilità della nostra voce a distanza senza dover gravare sul motore, quindi usare l'amplificatore. Nel nostro caso l'amplificatore sono le nostre cavità di risonanza che possiamo allenare ad ottenere il miglior rinforzo armonico e quindi la migliore udibilità possibile per non stancarci, per non stancare il motore, appunto. Mi sembra abbastanza complicato. Se uno pensasse che dietro all'emissione vocale c'è tutto questo lavoro, quasi uno dice non parlo, sono già stanca. No, ma il gesto poi diventa, nel coordinamento diventa un gesto automatico che ovviamente permette appunto di avere una migliore resistenza vocale nel tempo. Sono degli automatismi, è un po' come quando la prima volta che andiamo a scuola guida ci insegnano dove dobbiamo quali piedi dobbiamo spingere per schiacciare l'acceleratore piuttosto che il freno, eccetera, e ci sembra un po' complicato. Poi nel farlo, automatizzare in maniera economica questi comportamenti, finiamo col parlare col vicino di viaggio senza più accorgerci cosa stanno facendo i piedi in maniera economica e rapida. Abbiamo Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho chiamato perché sono rimasto interessato dall'argomento. Io faccio l'avvocato, 43 anni. Sì. E uso la voce per lavorare. E volevo sostanzialmente sapere se c'è qualche consiglio per mantenerla in esercizio, sì, magari anche che si possa fare a casa o con un minimo impegno, oppure che qualche altro consiglio per ripristinare la voce in caso di abbassamenti improvvisi, magari per cause anche non conosciute. Bravo avvocato, sono proprio le domande che io volevo fare ai nostri ospiti, a Danila Satragno e al dottor Fussi, e quindi Danila. Sicuramente forse in questo Franco è più preciso e sintetico, comunque diciamo la cosa più importante, sarà d'accordo Franco, credo Nicoletta, è prevenire, cioè appunto è sapere come fare per gestire bene la voce. Parlava Franco, no, di questi automatismi, ci vengono già naturali, no? Quando noi vogliamo chiamare una persona dall'altra parte della strada aumentiamo il fiato, apriamo di più la bocca, quindi aumentiamo le nostre capacità, quindi sono già processi molto naturali, vanno semplicemente un po' più controllati. Per cui l'esercizio per esempio di una buona respirazione, oltre che essere favorevole proprio per la salute, ecco, è fondamentale per la voce. Per cui ecco, un grande parlatore, un grande comunicatore come può essere un avvocato deve avere intanto il senso del respiro e del diaframma. Che ci facciamo spiegare dal dottor Fussi? Allora, per quanto riguarda il training, diciamo che un parlatore dovrebbe fare per avere la miglior prestazione possibile, la migliore resistenza vocale, è sicuramente intanto aderire a certe norme di igiene vocale che prevedono appunto di mantenere l'organo in buono stato di idratazione. Ci sono una serie di procedure che si possono fare, e fare anche riscaldamento vocale prima di utilizzare professionalmente la voce. Questo vale per gli avvocati ma anche per gli insegnanti, quindi sì, avere un minimo di bagaglio di conoscenze. Idratazione vuol dire che dobbiamo bere un po' d'acqua? Idratazione, almeno 2 litri d'acqua al giorno bisogna, sì, bere, e poi comunque nei periodi di secchezza per esempio tenere un fazzoletto bagnato di stoffa anche sotto le narici per inalare appunto dal fazzoletto per una decina di minuti, in modo tale da mandare al massimo grado di idratazione possibile sulle corde vocali. vocali prima di una performance, prima di un utilizzo vocale prolungato, soprattutto quando siamo in ambienti polverosi, secchi, surriscaldati, con l'aria condizionata, eccetera. E poi anche utilizzare sostanze emollienti e idratanti, come possono essere l'acido ialuronico, esiste oggi anche in spray, la vitamina E in spray, il ribesnero in compresse a base di glicerina, sono tutti idratanti ed emollienti delle nostre mucose del cavo orale. Più la mucosa delle corde vocali è idratata e più è flessuosa, e quindi facciamo meno fatica a produrre suono, e poi prevenire tutte quelle che possono essere invece condizioni che essiccano la nostra mucosa, quindi combattere il reflusso gastroesofageo se ne soffriamo, evitare il fumo e l'alcol, quindi mantenere in un buono stato di idratazione la corda vocale, e poi comunque imparare appunto esercizi di riscaldamento. Queste cose le possiamo poi trovare attraverso i consigli di una logopedista che appunto ci può far fare un training educativo per avere la massima resa col minimo sforzo, e sono comunque anche reperibili anche su vari siti, ad esempio sul sito voceartistica.it, che è quello che curo io e dove ci sono tutte queste norme di igiene vocale. Certo, ed è un sito fatto molto bene che io vi consiglio. Ma per quanto riguarda la respirazione, viene fuori praticamente in ogni puntata di Essere Benessere, poi ci riportiamo lì, perché noi siamo un po' bloccati. Ci facciamo un esercizio di respirazione, dottor Fussi? Allora possiamo elasticizzare tra virgolette il nostro diaframma perché non sia contratto e perché sia bello distensibile, quindi controllabile poi nell'atto inspiratorio, ad esempio facendo una respirazione in piedi, perché poi parliamo in piedi, quindi spesso si fanno gli esercizi di respirazione da sdraiati, ma in fondo non è la condizione ideale, e mettendoci quindi in piedi appoggiati a una parete possiamo inspirare pensando di gonfiare il nostro epigastrio, cioè la zona che va dallo stomaco, dallo sterno all'ombelico, e non soltanto quindi la parete addominale anteriore ma anche la zona costale laterale, pensando che le nostre costole si aprano come a manico di secchio, quindi diciamo tutto il perimetro dove metteremo il nostro salvagente quando andiamo al mare, no? Questa cintura bassa dobbiamo cercare di lasciarla espandere in modo che il diaframma scenda, e poi durante la fase espiratoria con un soffio, anche semplicemente a labbra chiuse, controllare l'espirazione, il dosaggio dell'aria, e quindi lentamente far risalire il diaframma, prima operando una pressione a livello epigastrico, quindi a livello addominale anteriore, gradatamente verso l'interno, cercando di mantenere le coste aperte, poi alla fine, quando abbiamo bisogno di espellere l'ultima parte dell'aria espiratoria, chiudere anche la nostra zona costale laterale. E questo viene fatto appunto lentamente, più volte, per ripristinare una buona elasticità del diaframma e il suo controllo in tenuta quando stiamo parlando. Danila, nel tuo libro c'è un punto in cui tu, prima di approfondire gli esercizi, introduci uno degli ostacoli più comuni alla fluida emissione del fiato, e descrivi quando, e capita a tutti, avvertiamo nei momenti di tensione emotiva un blocco a livello delle spalle, ma soprattutto un peso sullo sterno. Si tratta di quello che tu definisci punto dell'ansia, una zona più o meno al centro del petto in cui spesso chi è teso a una semplice digitopressione avverte un po' di dolore. Esatto. Ecco, e tu insegni un esercizio per sbloccarlo, rifacendosi un po' alla filosofia indiana, no? Perché questo squilibrio si rifà al quarto chakra. Ci racconti? Certo, che tanto un po' di energetico. Ecco, tanto un po' di ansia, di tensione ce l'abbiamo tutti, quindi male non fa. Assolutamente, poi appunto rivolgendoci anche al nostro avvocato che ha chiamato, spesso parlando proprio irrigidiamo le spalle, irrigidiamo il torace, a volte gesticoliamo in modo nervoso, per cui diciamo, aumentiamo il tono muscolare a dismisura e quindi creiamo proprio un blocco tra quello che è la testa e il corpo, diciamo, quindi impediamo proprio una postura morbida che sicuramente faciliterebbe la nostra vocalità, ovviamente sia parlata che cantata. casa. E appunto a questo proposito io dico sempre di intanto stare attenti, cioè a controllarsi, non prendere posizioni anche stando al telefono, piegando la testa, ne facciamo veramente di tutti i colori per quei telefonini, siamo impazziti. Questo è sicuramente sono motivi di grande stress. E nel libro appunto racconto come spesso facendo questi esercizi con unghie tenute molto morbide su un fiato, esattamente sulla respirazione che ha descritto Franco, riuscire a automassaggiare questo punto, da prima sicuramente un po' doloroso, e poi sentiamo appunto una distensione progressiva, aiuta assolutamente a respirare nel modo corretto, cioè non con la parte alta del torace ma nella parte più bassa dei polmoni, e quindi sollecitando meglio il diaframma, e già così si può sentire una grossa differenza proprio già a livello di suono vocale, insomma. Perché è una manovra piacevole, molto, io la stavo provando prima in senso antiorario, sempre più profondamente con le dita, ma tu suggerisci anche con l'interno del polso, vero? Sì, perché diciamo riusciamo a stringere meglio senza fare troppa pressione con la spalla e col braccio, perché deve essere comunque un movimento molto morbido, molto piacevole e facile da eseguire, perché sennò provocherebbe un'altra contrazione, insomma. E abbinando piano piano la respirazione, chiudendo magari anche gli occhi, riusciamo a avere, sono anche piccoli minuti che rubiamo alla nostra giornata, ma che in realtà sono una conquista di un bene prezioso, cioè del rilassamento. Immediatamente voce e respiro hanno un altro sound, e noi ovviamente stiamo meglio. Tra l'altro questo esercizio l'ho anche spiegato, questi vari esercizi anche nell'applicazione che ho creato per l'iPhone, dove proprio ci sono dei video che fanno vedere proprio queste manovre sulla postura, sulla respirazione, ed è in realtà un gioco, si chiama Voice Tuner, ma in realtà poi aiuta proprio a mantenere diciamo una voce ottimale. C'è anche un esercizio molto bello sulla quella che io chiamo la nota del benessere, visto che Nicoletta parliamo di benessere oggi, che è esattamente la nota o le note in cui dovremmo parlare per essere più a nostro agio. Ognuno ha possiede la sua. E come facciamo a capirlo? È una meravigliosa, diciamo, macchinetta che ha Franco, sicuramente che possiede Franco, e che dà un'idea precisissima di quella che è la nostra nota fondamentale. Ma sull'applicazione. Ma scusatemi, io voglio capire di più, perché questa nota fondamentale mi piace. Ma se una persona, dottor Fussi, parla, se lei ha bisogno di questo apparecchietto, oppure sentendo una persona può fare una sorta di interpretazione, suggerire la nota? Sì, è una rilevazione della frequenza fondamentale media su cui le nostre corde vocali sono comodamente, diciamo, intonate, quindi come le tensioni muscolari più o meno ci aggiriamo intorno a un range, no? Sì. Che di solito nel parlato è di una quinta, un'ottava al massimo, e questo apparecchio permette di fare la media di tutte le frequenze che io sto usando mentre sto parlando, e quindi posso identificare se la frequenza della mia voce è 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz. Per esempio, la possibilità di farlo ad orecchio è data semplicemente nel cercare di capire, di sentire qual è la nota media su cui stiamo parlando. Per esempio, facendo contare una persona da 1 a 10, io ora provo a contare rapidamente fino a 10, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, già sento che la mia frequenza fondamentale più o meno è questa, e quindi identifico la nota su cui mediamente mi sto aggirando. Ed sarebbe la nota poi più comoda per le corde vocali, perché nasce dal linguaggio spontaneo, e quindi è la nota su cui la muscolatura, diciamo, sente di fare meno fatica. Quindi sarebbe importante conoscerla. Sì, è importante conoscerla, poi perché poi fa parte della parte bassa del range della propria estensione. Sappiamo che l'estensione può andare dal registro di fry al registro di fischio, no? Se consideriamo per esempio negli stili musicali il fry, il growl, i monaci tibetani, quelli che vanno le voci dove non vibrano solo le corde vocali. Sono Chiara Canzian e faccio la cantautrice. Studio canto da molti, molti, moltissimi anni, e ho fatto un percorso molto lungo di studio, no? Iniziando con vari insegnanti che non mi avevano mai in realtà soddisfatto fino in fondo. Quindi tendevo a iniziare un percorso di studio e poi a lasciarlo molto velocemente perché sono anche un po' pigra. E poi io ho incontrato Danila e c'è stata la svolta, nel senso che ho iniziato a seguire il suo metodo di insegnamento e mi ha entusiasmato a tal punto che mi sono messa a studiare con più devozione, studiando appunto anche a casa, eccetera, e mi ha servito moltissimo, mi ha insegnato delle cose che prima non avevo capito, mi ha insegnato a intuire la mia voce e il mio strumento, no? Interamente, a partire, cioè anche la gola, tutto quanto, come muoverla, ad avere coscienza di come è fatta e di come può essere utilizzata. Ed è difficile farlo, ed è difficile soprattutto trasmettere questa cosa, perché non la vedi, non la puoi vedere, no? La voce, ma neanche in realtà quello che abbiamo qui, no? E il diaframma e tutto il resto. Quindi farlo percepire all'altra persona è molto complicato. Almeno provaci. E quando tutto è buio e quando non vedi più i colori. Ho iniziato con lei prima di Sanremo, prima del mio Sanremo del 2009, e probabilmente lo studio, il percorso fatto con lei è stata l'unica cosa che mi ha salvato dalla fonia totale, in quanto comunque avevo la febbre a 38,5 e avevo la tonsillite. E se sono riuscita a emettere una nota mediamente discreta, se non mi chiamala così, è stato solo per la tecnica che avevo acquisito con lei. E quella che abbiamo appena ascoltato è la voce di Chiara Canzian, che parla di come il vocal care l'abbia salvata a Sanremo dello scorso anno, perché lei era completamente afona. Danila, che cos'ha di particolare questo metodo che è stato così utilizzato, che tu hai utilizzato per artisti anche molto importanti e che l'hanno abbracciato con entusiasmo, trovando anche degli aspetti nuovi? Ma io credo fondamentalmente proprio per la novità un po' del vocal care, no? Che ha cercato di avere come obiettivo il fatto di allenare la voce, esattamente proprio come trattando il cantante come un atleta, esattamente, per cui con un allenamento muscolare che appunto aiutasse l'intonazione, l'estensione, il volume, ma non intaccasse minimamente la timbrica originale, no? Non impostasse tra virgolette la voce, ma la voce rimane ovviamente molto naturale, ma ovviamente più bella, più forte, più potente. Questo è sicuramente stato il motivo di successo tra appunto i cantanti, che ovviamente tengono particolarmente alla loro identità vocale, alla loro particolarità. È molto bello, no? Accendere la radio e subito individuare la vocalità, e quindi va rispettata assolutamente. E poi appunto con Chiara abbiamo lavorato moltissimo, adesso è la nota del benessere, ci abbiamo lavorato veramente tanto. Essere e benessere. Torniamo a parlare della nostra voce, è unica, è proprio come un'impronta digitale, come l'iride, non esiste una al mondo perfettamente uguale a quella che abbiamo noi, questo è già di per sé straordinario. Dottor Fussi, quando uno sente la propria voce e fa attenzione alla voce, molti ascoltatori mi scrivono, mi resto quasi paralizzato quando riascolto la mia voce registrata, non mi riconosco più. Ma il fenomeno è legato al fatto che quando noi parliamo abbiamo un autoascolto per due vie, una via aerea e una via ossea, cioè ascoltiamo la nostra voce che ci rientra nelle orecchie, ma ascoltiamo anche le vibrazioni del nostro corpo, e quindi c'è una vibrazione ossea che viene trasmessa all'organo dell'udito, e quindi abbiamo un ascolto diverso rispetto a quando invece ascoltiamo la nostra voce registrata, per cui il suono ci arriva solo per via aerea, quindi abbiamo una percezione nettamente diversa, non siamo abituati ad ascoltare la nostra voce solo per via aerea, mentre invece la voce degli altri sì, ecco perché la nostra voce ci risulta strana o diversa quando la ascoltiamo registrata rispetto a quando la ascoltiamo mentre stiamo parlando. Andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano perché c'è Andrea. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti. Che voce ha Andrea? Parli un po', Andrea, che così i nostri esperti le fanno una sorta di carta d'identità della sua voce. A me sembra bella, Andrea, parli. Rispecchio quello che ho detto prima, che quando ci si riascolta registrata, poi dopo sembra una voce totalmente diversa da quello che si sente dall'interno, ecco. Quindi... Dottor Fussi, prima che Andrea ci racconti il motivo della sua chiamata, che voce ha Andrea? Beh, direi che è una voce comunque eufonica, pulita, manca magari un po' di proiezione vocale, ma magari in questo momento è emozionato perché ha il telefono, quindi non ha capacità di proiettare facilmente la voce come se fosse in un'aula. Ah, quindi di lanciarla lontano? Di essere un po' più timbrato e di avere meno lavoro sulla corda e lavorare più sui risuonatori alti. Andrea, provi? È proprio per quello che sto chiamando, ecco, perché il mio problema c'è quando, appunto come adesso, si parla in pubblico, nel senso, a me capita molto spesso, credo di non essere l'unico, di parlare da solo, cioè di ripetere magari una conversazione, cercare di, oppure leggere ad alta voce anche un libro. Sì. E mi rendo conto effettivamente che quando sono da solo, che quando parlo da solo, tra virgolette, nel senso che leggo un libro a voce alta, o quando mi ritrovo magari con un numero ridotto di persone a parlare con queste persone, ho un timbro di voce effettivamente diverso. Quello che invece mi cambia, e credo che può trasparire anche un indice di insicurezza nella voce, magari una voce tremante, tipo magari come diceva appunto il dottore adesso, sì, è quando si parla in pubblico, perché molto spesso, specialmente nel primo approccio, proprio appena inizi a parlare, ti viene questa accelerazione del battito cardiaco, che ti viene quasi l'affanno e non ti fa appunto... Certo, però c'è quel puntino che ci ha insegnato a localizzare Danila Satragno, in cui noi possiamo massaggiare, ma passo subito la parola a Danila, perché Andrea, ad esempio... Premo nel parlare con Andrea, perché proprio, secondo me, è una voce potenzialmente molto bella, ma assolutamente... da scaldare, io direi, insomma, ecco, sicuramente da appoggiare di più al diaframma e da un'adozione cordale migliore per avere sicuramente un timbro più deciso. La potenzialità c'è, non c'è abbastanza controllo su questi parametri, per cui il suono non è completamente rotondo, ecco, questa è la parola giusta. Ma tradotto in parole molto semplici, questo che cosa significa? Scaldare la voce vuol dire fare quello che gli atleti, ad esempio, chi fa attività sportiva fa facendo stretching, e quindi che cosa significa? Assolutamente, infatti io scrivo proprio degli studi, degli esercizi di stretching della voce, e di abituarci a posare la voce sul fiato, non leggermente, non lasciare che l'aria si infili nel nostro suono, quindi avere questo suono, ma bello pieno, e questo è un gioco, è una magia che deve avvenire tra le corde vocali e il diaframma. È in sostanza molto semplice, ma effettivamente cambia in un attimo la sonorità. Infatti spesso i ragazzi, quando si lavora in questo senso, rimangono sempre meravigliati, perché sembra un gioco di prestigio, perché in un attimo veramente il suono cambia improvvisamente. Dottor Fussi, mi dica. Il fatto di lavorare sulla nostra voce, che tante volte, lo leggo dai messaggi dei nostri ascoltatori, non ci piace. Però ecco, il fatto di dire io ho una cosa, un'opera straordinaria, poi la limo, la tiro fuori, però come la mia voce non esiste uno uguale al mondo. Già questo no. Mi... sì, sicuramente è un'impronta digitale, come dicevi, perché comunque ognuno di noi ha delle cavità di risonanza che hanno una determinata struttura, quindi rinforzano determinati armonici rispetto ad altri, quindi il colore della nostra voce è diverso dall'una all'altra persona, e poi comunque sono organi mobili, quindi possiamo comunque continuamente modificare l'atteggiamento e l'assetto di questa cavità di risonanza, e quindi cambiare il colore e il timbro della nostra voce e imitare anche dei personaggi. L'imitazione può essere anche un elemento utile in fase di apprendimento, perché capisci meglio, conosci meglio il tuo organo e sai che potenzialità hai, come poterle sfruttare al massimo, quindi anche l'aspetto imitativo può avere un significato. E bisogna stare attenti a non sforzarla, a non chiederle troppo, e quindi a evitare di poi incorrere in patologie. Certo, dobbiamo tenerla da conto, allenarla e trattarla con amore. Guido, da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io sono un di Torino, sono un rappresentante che utilizzo molto spesso la voce per fare anche delle presentazioni. Sì. E a volte mi trovo a fine giornata senza voce, volevo appunto avere delle indicazioni, però in parte lo sentite, su come prevenire, come curare quando poi alla sera si ha le corde vocali veramente stanche. Chi risponde? Potete rispondere entrambi, ciascuno con un consiglio. Inizierei da Danila. Danila. Certo, beh, insomma, anch'io quando mi ritrovo a fare la cantante e anche l'insegnante, quindi non è facile far convivere le due cose. Sinceramente, appunto, a parte conoscere, diciamo, tutti gli esercizi che aiutano e che potenziano la voce, ed è indispensabile farli con un trainer, o appunto nel libro, insomma, ho messo anche un DVD proprio per chi vuol fare un po' un fai da te, insomma, sì, che vuole un vocal coach a casa, e può essere una cosa molto interessante. Però la cosa importante, secondo me, è scaldare la voce al mattino anche un minuto, due minuti, con esercizi appunto di attacchi morbidi, cioè imparare ad addurre dolcemente le corde vocali. Ce ne fai uno, Danila, perché così, certo, noi capiamo, proviamo. Anche se oggi Franco capirà col raffreddore, però lo facciamo lo stesso. Ma lui fa finta di non capire, tanto, tanto non mi dà la... voto. Ecco. Tanto mi ha già salvato la voce molte volte, quindi sarebbe l'ennesima volta. Quindi... passare da un suono soffiato a un suono più pulito, o comunque un attacco morbido con consonanti che aiutano. Monda, morso, che sono tutte parole che Franco ha scritto nei suoi libri, insomma, che aiutano, frasi che aiutano proprio il giusto atteggiamento delle corde vocali. E poi ricordarsi che anche a sera, dopo la grande stanchezza, c'è anche una sorta di raffreddamento vocale per togliere l'acido lattico accumulato, perché sono dei muscoli e sono esercizi di nuovo che si fanno appunto di masticazione, massaggiando appunto al punto dell'ansia e cercando di riportare morbidezza a una corda vocale stanca, così domani mattina siamo più puliti dal muco e, sì, più tonici, insomma. Ecco, questo per esempio già è una cosa che faccio abitualmente, anche se non avverto il canone di voce, lo faccio proprio per prevenzione. Dottor Fussi, ma il canto, iniziare a cantare, iscriversi, lavorare con un coro, può essere terapeutico? A chi può servire? Non parliamo naturalmente di professionisti, parliamo di chi ama, no? Canticchiare anche seguendo una canzone, magari suona la chitarra, canta delle filastrocche o delle canzoncine ai propri bambini. Può servire? Beh, il suono sicuramente ha un valore terapeutico importante, quindi anche emettere suoni con la propria voce può avere effetti catartici, effetti di rilassamento, e quindi avere un effetto terapeutico sicuramente. Bisogna però comunque avere una buona capacità di estensione, anche se poi dal punto di vista terapeutico non è che vengano mai usate delle estensioni eccessive. Sappiamo benissimo, no, anche gli effetti della musica di Mozart sul feto, sul neonato, sì, che stimola anche proprio le connessioni neuronali. E per quanto riguarda l'estensione, possiamo stimolare sicuramente gli atteggiamenti vocali più consoni, però facendo riferimento ad un vocal coach per quanto riguarda il canto e a un logopedista per quanto riguarda le nostre attività parlate, per poter appunto imparare a utilizzare anche l'emissione sonora anche a scopo appunto terapeutico, anche a scopo di autorilassamento, come avviene anche in tante pratiche meditative. Andiamo a Roma. Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Eccoci, Gianni. Allora, io ho un piccolo problema, piccolissimo, marginale. A me piace molto cantare, io faccio l'agente di commercio, in auto quando sento una canzone che mi prende urlo a squarciagola, però sì, dopo pochissimi minuti mi fanno male le corde vocali. E un tempo sono andato da un otorino a ringoiatra, mi ha detto che ho dei piccoli polipetti alle corde vocali. Sì. Forzandole chiaramente fanno male. Ha detto non conviene toglierli, non è che devo fare concerti o cosa. Gianni, però che soddisfazione cantare a squarciagola in macchina. Gianni, lo faccio anch'io e mi dà molta soddisfazione, anzi una volta canterò per Danila Satragno, mi farò sentire. Dottor Fussi, forse questa la storia di Gianni è più di pertinenza sua, questi polipetti potrebbero essere la causa di questa fatica. comportamento? Il comportamento vocale in macchina, seduti, quindi muovendo poco bene il diaframma e forzando, non avendo un buon ritorno acustico, è già sbagliamo. Sì, sbagliamo, perché è comunque un induttore di mal comportamento vocale, e allora le nostre corde vocali sbattono mentre vibrano, e nell'urtarsi si creano queste erniette che si chiamano polipi. Quindi il consiglio di oggi è: cantate, ma cantate in piedi. Essere e benessere. Ed eccoci tornati insieme, riprendiamo il nostro corso di sensoterapia. Oggi parliamo di vista, ci accompagna come sempre la professoressa Alessandra Graziottin, che è in linea con noi. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questa puntata, questo è un viaggio alla riscoperta dei nostri sensi, lo facciamo soprattutto adesso in estate, quando i ritmi sono un pochino più lenti e quindi abbiamo più tempo per noi stessi, perché siamo consapevoli che dalla riscoperta dei sensi possiamo in qualche modo ritrovare delle strade, dei percorsi per un nostro benessere. Professoressa, è questo il messaggio che vogliamo dare? L'ho interpretato in modo corretto? Sì, sì, lei è bravissima. Il discorso è senz'altro da ripensare, che noi oggi abbiamo dato alla vista una priorità, basta pensare che siamo la società dell'immagine, e in qualche modo questo senso sembra azzerare tutti gli altri o ridurli molto di importanza. Noi che invece siamo innamorati della voce e della radio, sappiamo quanto possa essere fondamentale poi nella comunicazione interpersonale avere e usare bene tutti gli altri sensi. Comunque, tornando alla vista, certamente oggi noi agganciamo lo sguardo dell'altro attraverso un uso sapiente del volto e del corpo nudo e del corpo vestito. E certamente, come lei diceva bene prima, c'è una crescente fetta della nostra popolazione che ha difficoltà a mostrarsi. Ha difficoltà a mostrarsi perché sente sempre più forte il sentimento di inadeguatezza che nasce da un ideale dell'io molto alto, che è quello delle donne splendide, dei corpi statuari che si vedono sulle, magari ritoccatissime, ma comunque statuari che si vedono nelle foto, nei giornali oppure nei media, e la propria verità. Qual è il punto? E questo è un punto molto importante, che quanto più noi chiediamo al nostro corpo di essere solo un attaccapanni di pelle o di carne, tanto più lo esponiamo a diventare motivo di frustrazione per la nostra vita. Di converso, se noi abitiamo questo corpo, lo abitiamo con gioia nel ballo, nel canto, nello sport, nel gioco, nell'amore, ecco che allora questo corpo abitato e che ci dà tanti motivi di gioia, a quel punto, se anche non è perfetto o non aderisce a quel tipo di perfezione formale, non ha importanza, ci dà gioia, ci rende felici, è un corpo amato, è un corpo che sa amare. Quindi è un corpo che parla. È un corpo che parla, che comunica che è vivo per la persona a cui appartiene e che è vivo per gli altri che gli vogliono bene, che stanno insieme. Ecco che questo è un messaggio molto molto forte, mentre oggi tendiamo a svalutare e a non esperire più le molteplici ragioni di gioia che il corpo ci può dare, per viverlo solo in funzione dell'aspetto formale, estetico, della precisione di una certa linea del corpo. Lo stesso ricorso massiccio alla chirurgia plastica, che va benissimo se è fatta con intelligenza e senso dell'equilibrio, ma quando diventa sostitutiva di una capacità personale di abitare il proprio corpo con gioia, a quel punto diventa un segnale di un grosso squilibrio interno della persona, non solo, ma questo rincorre continuamente una perfezione visiva, tra l'altro ideale, attraverso un intervento chirurgico che violenta il corpo e lo riduce a un cimitero di guerra con 1000 cicatrici, e su questo dobbiamo pensare bene. Mentre invece un movimento fisico regolare, uno sport, il ballo per esempio, il ballo dà una gioia immensa perché mette insieme la musica, mette insieme la liturgia della coppia, soprattutto il ballo in coppia ci aiuta moltissimo, mette insieme la melodia, mette insieme l'abitare il corpo in un corteggiamento rituale, e questo va benissimo fino a 100 anni. Perché allora non vivere questa dimensione? Con questo non significa che la vista non sia importante, non significa che non sia importante prendersi cura di sé, farsi belli anche per l'altro, perché anche la sciatteria è una forma di aggressione, tuttavia sempre con il saggio equilibrio. Abbiamo parlato di sguardi che a volte feriscono, a volte accarezzano. Le vacanze sono sicuramente un'occasione per portare un po' lo sguardo lontano, abbiamo dei paesaggi sicuramente meravigliosi da ammirare, per scattare postare delle fotografie e in ogni puntata cerchiamo di utilizzare i nostri sensi per immagazzinare qualche emozione da poi ripescare poi in autunno al ritorno dalle vacanze. Sicuramente fotografare dentro di sé un paesaggio, un'immagine che ci ha dato gioia, beh, questo è un bel serbatoio d'energia, è un bel esercizio che possiamo, no, utilizzare per imparare a riutilizzare la vista in un senso pieno, non solamente a guardare di sfuggita quello che abbiamo intorno, ma diventare un pochino parte attiva, no? Io ho usato il termine fotografare, una fotografia che in qualche modo viene impressionata nella nostra mente, nel nostro cuore, ma la vista è anche quello, no? Un modo per mettere in relazione l'esterno con l'interno. Sì, lo è a una condizione, che ti dia un'emozione. Tutta la memoria funziona su questo binomio, senso, quale che sia, fisico o vista, udito, più emozione. Quanto più uno stimolo sensoriale ci emoziona, tanto più viene immagazzinato in maniera forte nella nostra memoria. Ecco che allora, quello che lei suggeriva, giustissimo, di fare anche una sorta di provvista per l'inverno di belle immagini, diventa tanto più ricaricante, rigenerante e affettivamente significativa quanto più è legata a un'emozione e allora quanto più è condivisa. Un aspetto che a me piace molto, per esempio, amando molti bambini, è quello di riscoprire il mondo attraverso gli occhi dei nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipotini. I sorrisi dei bambini sono qualche cosa che riconcilia con la vita, come si dice. Sì, ma anche guardare il mondo con i loro occhi, per esempio, rimettersi a osservare i fiori nel giardino, le farfalle, gli insetti, rispettandoli senza fargli del male, andare nel bosco, per esempio, con i bambini, può essere un'occasione per noi stessi per riscoprire il mondo attraverso i loro occhi e condividerlo con loro. E la gioia, le battute che fa un bambino, la sorpresa con cui commenta, una, per esempio, l'animaletto che non ha mai visto prima, ci dà una tale gioia da veramente diventare una provvista visiva per le vacanze. Ecco che allora condividere emozioni belle. Altre volte, se il bambino è più grandino, un preadolescente per esempio, o anche un bambino adolescente che sia particolarmente curioso, anche un percorso artistico. Noi oggi abbiamo paura di annoiare i nostri figli se una parte, non dico tutte, ma una parte piccola della vacanza è anche dedicata a un viaggio culturale. Mostrare per esempio ai bambini i dettagli di un capitello gotico con tutte quegli animali strani, commentarli insieme, immaginare le storie che raccontano, far conoscere e capire quanto dell'anima pagana sia migrata all'interno per esempio dell'iconografia religiosa cattolica, riscoprire insieme il dettaglio, quella cattedrale o quella piccola chiesa non ce la dimenticheremo più e sarà nel bagaglio anche di quel bambino. Perché? Perché è stata guardata con amore e condivisa in un momento di gioia, di tranquillità e di relax con le persone che ama. Quindi non sottovalutiamo anche questo piacere che i bambini e i giovani hanno di imparare, purché sia fatto con amore, purché sia fatto con un'emozione di scoperta condivisa. È sempre l'emozione poi che premia. È sempre l'emozione che premia, professoressa Graziottin, ed è vero quello che lei dice, soprattutto perché i bambini ci mettono in una prospettiva diversa, guardano il mondo dal basso verso l'alto, ma puntano in alto con i loro sogni, le loro emozioni. Quindi noi abbiamo iniziato a parlare di un senso della vista e stiamo accorgendoci di quante cose ci siano dietro questa parola, di questo senso. Ci sono emozioni, modi di intendere la vita, scoperte. È veramente qualcosa di molto magico, ampio, penetrante. Sì, guardi, le tra due ultime cose che possono essere uno spunto bello. Uno, quando per esempio si vanno a trovare invece i propri genitori anziani o gli zii anziani, riportare delle foto scattate negli anni prima. Perché? Perché condividere insieme il ripercorrere, no? Il film della nostra vita o anche della nostra famiglia attraverso vecchie foto che magari hanno dormito nei cassetti per anni o anche vecchi filmini adesso che si hanno, è di nuovo un momento di condivisione di gioia attraverso la vista e di riattivazione di emozioni e di affetti straordinarie. Come curiosità in margine le dirò che per esempio utilizzo molto le foto anche quando le persone riportano per esempio delle grosse asimmetrie nella famiglia, negli affetti. Per esempio la ragazza che mi dice: no, mio padre non mi ha amato, non mi ha mai guardato, eccetera, eccetera. Dico: ma portiamo le foto, portami un po' di foto senza sceglierle. E poi magari salta fuori che in moltissime foto lei è in braccio al padre e le foto le scatta la madre. E si vede, allora si commenta come c'è questo padre, come la sta tenendo in braccio, si vede l'affetto, si vede la tenerezza. Ecco che questo è un modo per riscrivere anche la storia della propria vita, quando una serie di eventi negativi, magari successivi, o anche una serie di complessi di inferiorità rispetto a un fratello, una sorella, le gelosie, tante cose, ci portano a leggere in maniera distorta il nostro passato. Ecco che allora la vista ci può aiutare anche a ripercorrere la nostra infanzia o la vita della nostra famiglia, con di nuovo una tonalità affettiva e emotiva che ci fa molto bene, e farlo insieme agli anziani regala dei momenti di gioia straordinari. Quindi di nuovo un aspetto che ci può regalare un frammento d'estate molto dolce e molto emozionante. Professoressa Graziottin, questa settimana allora faremo molta attenzione a come e dove poseremo lo sguardo. Alla prossima. Volentieri. E per oggi è tutto, mi raccomando, l'appuntamento torna domani, sempre dopo il GR delle 11. Io sono qua, tornate anche voi.